La distanza. Ehi cucciola, ascolta attentamente, adesso ti racconto il mio cuore cosa sento. Un affetto, un'attrazione, desiderio bollente di averti qua con me. Vedere il prepotente con te, baby, sentire il paradiso conquistato da te, dalla dolcezza del tuo viso con il tuo corpo, con la tua voce sensuale. Col mio amore non lo temeresti più, temporale ti darei l'emozione di una lenta carezza, dopo stringerti, baciarti con delicatezza. Giorno dopo giorno la mia tristezza cresce, ti penso tutto il giorno. Anche se il sole non esce, hai mai avuto in desiderio dare via la tua vita, dare tutto per te, persino la farei finita per averti, passare la mia vita insieme a te. Il mio amore così grande, più grande dell'Everest. Perché anch'io come te vivo un sogno al limite. Perché anch'io come te credo sia possibile. Tutto quello che dico è la verità, io ti seguirei fino all'aldilà, fino alla vetta più alta, nel mare più profondo donerei tutto ciò che c'è, che vuoi, che puoi dal mondo sconfiggere ogni cosa che mi ostacoli cammino. Tu non sai quanto desidero starti vicino, per me vali più di qualsiasi gemma. Purtroppo il nostro amore è un così grande solo dilemma. Io come te vivo un sogno al limite. Sai anch'io come te credo sia possibile. Tutto quello che ti dico è la verità. Ehi cucciola, ascolta attentamente, io ti seguirei fino là di là. Adesso ti racconto il mio cuore, dalla vetta più alta al mare più profondo. Tu non sai quanto desidero starti vicino. Un affetto, un'attrazione, un desiderio bollente con te, baby, della dolcezza del tuo viso. Perché anch'io come te, la distanza tra noi mi fa piangere ogni notte. Io non ti lascio, dico chi sei. Perché anch'io come te, e attendo, potrò amarti un giorno, perché ti sto cercando in ogni angolo. Ti adoro troppo di Pishman and Line, io un tuccio somme flow di Evi Kaido col controllo me. Ma non sei sotto di te, ti springe in di te, oste solo per te che c'è la grazia di una rosa. Ho scritto questo rap per dirti solo una cosa, in tutte le lingue potrei cantare for you, i lip ti amo, I love you.